enduring objectives of peace and prosperity, of democracy and human dignity. Radiazione 20 dicembre 2013, oggi sono da solo, ora è per tutte le feste, no, scherzo, oggi sono da solo, quindi mi dovrete succare da solo con le mie cazzate, i miei deliri, hanno portato un certificato medico, quindi l'altra compagna che normalmente accompagna il venerdì non c'è. Quindi oggi la diretta d'azione riguarderà come tutti i venerdì solo controinformazione e musica. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@giocciolina.org per chi vuole mandarci qualsiasi tipo di scritto, comunicate, mail, manifesti, giornali, consigli, vaffanculo, complimenti specialmente, infatti vaffanculo, oramai ci siamo abituati a vaffanculo, un po' di complimenti ogni tanto fanno pure bene. Altrimenti per il blog, dove potete andarvi a rileggere tutta la controinformazione aggiornata quasi quotidianamente, radiazione.noblogs.org, che è il blog della radio di Radiazione, dove da oggi c'è una nuova pagina, si chiama Lo Scrigno. in giro per il web ci sono un'immensità di perle di saggezza. Le ostriche si aprono a meraviglia, escono fuori belle perline di saggezza anarchica, e quindi verranno raccolte tutte in questa pagina nuova che trovate sul blog di Radiazione. Si chiama Lo Scrigno, dove potete anche scaricarvi libri, opuscoli. Mi raccomando, c'è anche ci sono tre CD del gruppo del compagno cileno morto durante la rapina. Basta cliccare sull'immagine dove trovate l'articolo Palabras in conflitto, ci cliccate sopra e vi manda il link per scaricare questi tre CD della band hip hop del compagno Sebastian. Per la radio, chi l'ascolta non c'ha bisogno di sapere il link, ma comunque lo ricordiamo sempre, radiazione.listentumanradio.com, o altrimenti attraverso il blog di Radiazione cliccate sul banner che trovate in home page il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 e ascoltate la diretta di Radiazione. Ricordo che Radiazione le vacanze di Natale non le prende, quindi da lunedì ci sarà diretta regolare, a lunedì 23 ci sarà diretta regolare con la lettura di Veracruz, la controinformazione e la musica. Invece venerdì 27 un'altra diretta con controinformazione e musica, e così per tutte le feste di Natale, che tutti sono atei e tutti festeggiano. Allora, ora ci ascoltiamo un brano prima di iniziare la diretta con la controinformazione. Loro sono Jump Their New Dot, e dopo si torna qui e si parte subito con la controinformazione, con la prima notizia di controinformazione del giorno. Größer, schöner und stärker. Größer. Questi erano Jonf con il brano Der Neue Gott. Allora ho detto si passa subito alla controinformazione. Si passa alla controinformazione e si va in Grecia. In Grecia, dove c'è stato uno sciopero della fame e della sete di alcuni compagni prigionieri detenuti nel carcere di Korydallos. E anche in altre carceri, ricordiamo, c'è qualche compagno che sta portando ancora avanti lo sciopero della fame, come Spiros Stratoulis. In particolare ora parliamo dei sei compagni rinchiusi a Korydallos. Leggiamo direttamente il comunicato. Domenica sera, 15 dicembre 2013, abbiamo messo fine allo sciopero della fame e della sete, perché abbiamo ottenuto il nostro obiettivo principale, vale a dire la riunificazione della nostra comunità. Attraverso questa mobilitazione abbiamo resistito ai tentativi dell'amministrazione penitenziaria di Korydallos di dividerci e messo in chiaro che non tollereremo alcun tentativo che insulti la nostra dignità. Quanto a quello che ha a che vedere con la scelta del modulo A come una delle nostre richieste, era solo per evitare che ci spostassero tutti in un modulo di isolamento. Mentre eravamo in sciopero siamo stati informati che il problema dell'amministrazione in relazione al nostro ritorno al modulo A era dovuto all'atteggiamento negativo verso di noi degli altri prigionieri. Dal momento che i leader dei gruppi che controllano il modulo A hanno confermato tale cosa a noi compagni, abbiamo scelto di non tornare a un modulo beneficiario, specialmente perché la tattica di rottura che abbiamo preso contro i carcerieri sta rompendo la tranquillità, le comodità ed i benefici che sono la principale preoccupazione della maggior parte dei prigionieri. Seguirà un racconto analitico che descrive tutto quello che è accaduto. Poi c'è un post-scriptum: le grida e gli slogan dei nostri compagni ci hanno accompagnato, rompendo l'isolamento delle celle disciplinari, e le fiamme dell'attacco alla stazione di polizia di Exarchia hanno riscaldato i nostri cuori. Il comunicato è firmato da Fivor Arisis, Argiris Talios, Yannis Mialidis, Dimitris Polidis, Yorgos Karajanidis, Mabis Tsilianidis, Grigoris Sarafundis. E questi erano i sei compagni che fino a qualche giorno fa sono stati sciopero della fame. Ne avevamo già parlato, c'erano state anche un po' di iniziative sia ad Atene che in altre città della Grecia a sostegno dei compagni che erano sciopero della fame. Ora ci ascoltiamo un brano, di Pankov, Can't Stand Vashin, e poi dopo si torna qua e si torna con la controinformazione. Keiner will mehr leiden, ich hasse euch so sehr. Allora erano Pankow con il brano Cast and Vashin. Ora si continua con la controinformazione, prima dalla Grecia, poi ora dall'altro lato del mondo, con degli aggiornamenti sui compagni arrestati dopo la rapina al banco di Stato dove è morto Sebastian. Leggiamo direttamente gli aggiornamenti che prendiamo da Pubblicazione Refrattario. Dopo la rapina dove è stato ammazzato il compagno anarchico Sebastian Verslugi, si sono aperte ipotesi repressive per quanto riguarda la banca assaltata. Ad un paio di isolati, con l'aiuto dei testimoni, la polizia del 26esimo commissariato avrebbe identificato due dei partecipanti nell'assalto. Arrestarono gli anarchici Alfonso Avial Sanchez e Hermes González Enriquez, che avevano con loro nascosto dei guanti, parrucche e una pistola a testa. Dopo la permanenza in commissariato sono usciti e, passando davanti ai giornalisti, hanno gridato slogan in ricordo del compagno anarchico morto nell'azione. Infine, il 12 dicembre 2013 sono stati accusati di rapina con minacce e porto illegale d'armi. La procura aveva preteso di ottenere ulteriori 3 giorni per formalizzare le accuse, cercando di allargare il raggio repressivo con collegamenti anarchici e collegamenti col caso Bombas. Il tribunale invece ha rigettato la richiesta, essendo formalizzate le accuse già dal giovedì, ed ha concesso al procuratore Luis Pablo Cortés un periodo di 90 giorni per le indagini. Secondo la procura ci sarebbero stati 2 fuggitivi durante l'espropriazione bancaria. Intanto si indaga sulle armi sequestrate ai detenuti ed al compagno morto, e che le stesse armi sarebbero state rubate alle guardie di sicurezza durante 2 diverse rapine nel gennaio e marzo 2013. Attualmente i compagni antiautoritari Hermes e Alfonso sono detenuti nella sezione di massima sicurezza del carcere di alta sicurezza, libertà per tutti i prigionieri rivoluzionari ed anarchici. E questa era la notizia per quanto riguarda gli aggiornamenti dei compagni arrestati durante la rapina al Banco Stato. Lo ricordo ancora una volta, sul blog di redazione trovate un'immagine. Un'immagine che è la copertina di un CD, c'è scritto Cile, 3 CD da scaricare della band di Sebastian Verslugi. Ci cliccate sopra e vi indirizza al link dove c'è un file zippato, e dentro quel file, dentro quella cartella zippata, ci sono 3 CD dei Parabras in Conflitto, la band in cui cantava il compagno Sebastian, ammazzato, lo ricordo, l'11 dicembre scorso da Bassano in divisa dopo un tentativo di rapina al Banco Stato a Santiago del Cile. Ora ci ascoltiamo un brano, il brano è Tilt, cioè loro sono i Tilt, e il brano è Merciless. Poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione, si resta da quelle parti e si parla di divieti d'ingresso. We'll be right back. Dopo questo brano di Tilt si ritorna qui con la controinformazione. Ricordo che in Sud America in questo periodo c'era una serie di iniziative legate a delle discussioni organizzate in Argentina, Uruguay, Cile e Messico, chiamata Giornata Nera sull'informalità, sugli anarchici informali, in cui era andato lì a parlare Alfredo Maria Bonanno. Tutto bene per l'Argentina, tutto bene per l'Uruguay. Quando ha messo piede in Cile è stato rispedito indietro, gli è stato vietato l'ingresso nel paese, ed ora leggiamo delle considerazioni da parte dei compagni che avevano organizzato queste iniziative in Cile riguardante all'ingresso vietato da parte dello Stato del Cile ad Alfredo Maria Bonanno. Il testo, che è preso da Materiale Anarchista, inizia con una frase di Domenica Murua Ciuma, che dice: vedete, per quanto pochi possiamo essere, la stampa riesce sempre ad inventare grandi speculazioni, eppure non riescono ad oscurare quello che abbiamo da dire. Guardate, per quanto pochi siamo, le loro ingiurie contro di noi sono solamente dei singhiozzi, i loro argomenti diventano minimali, nonostante tutto il potere nelle loro mani, sono spaventati dai nostri più piccoli gesti. Vedete che per quel poco che siamo oggi è vero che un giorno saremo in milioni, come saranno in milioni come noi. Allora sì, che avranno avuto motivo di averci tanto temuto. Il testo poi continua con lo scritto dei compagni che dice: nel calendario delle iniziative riguardanti la discussione sulla lotta insurrezionale anarchica con Alfredo Bonanno, l'arrivo del compagno era previsto per le 23:50 di giovedì 12 dicembre. Purtroppo il PDA, il Police Department, gli ha impedito di entrare in paese mettendo la sua fedina penale come motivazione. Il governo cileno si vede come una grande prigione in cui è vietato o permesso l'ingresso di quelli considerati potenzialmente pericolosi. Alfredo, nel linguaggio del potere, incoraggia la parola o la scrittura di idee che tendono a distruggere o alterare con la violenza l'ordine pubblico o il sistema dei governanti. Un paio di ore più tardi, il compagno viene riportato di nuovo in Argentina, dove era stato in precedenza per una serie di iniziative. A posteriori abbiamo appreso dalla stampa borghese che il divieto di ingresso era stato rilasciato dal Ministero degli Interni circa un mese fa, quando fu annunciata la serie di iniziative che si dovevano tenere a Montevideo, Buenos Aires, Rosario e Santiago. Non bisogna avere una mente saggia per capire il modo e il perché le autorità hanno preso una decisione come questa. Tale misura è collegata da un lato con l'arresto dei 5 compagni anarchici di Barcellona, tra i quali compagni Monica Caballero e Francisco Solar, compagni imputati in passato anche per il caso Bombas e successivamente per una caccia alle streghe a livello internazionale. Inoltre questa decisione potrebbe anche essere basata sulla paura che genera lo Stato cileno per la diffusione delle idee anti-autoritarie e le riflessioni derivanti da queste come modo concreto per affrontare la lotta. Ci chiediamo cosa si nasconde dietro una mossa del genere? Qual è lo scopo del divieto di ingresso nel paese di un compagno che è venuto a tenere discussioni pubbliche in Uruguay e Argentina? Abbiamo sempre saputo che sarebbe potuto accadere ciò. Così abbiamo comunque deciso di andare avanti in un altro modo, coordinandoci tra compagni al di là dei confini imposti su di noi da parte degli stati. È chiaro a noi che il potere cerca di fermare il tramandare di esperienze di lotta da un paese all'altro e o da una generazione all'altra. Di tagliare i legami tra i compagni, paralizzare le reti di solidarietà e perseguire collegamenti internazionali che generano la lotta antistatale. Ma con la stessa durezza cercano di fermare la diffusione di una certezza, che noi possiamo relazionarci senza gerarchie e possiamo combattere le autorità ovunque ci si trovi. Il divieto di ingresso ci fa ricordare che il potere mantiene la memoria intatta di fronte ai rivoluzionari. Allo stesso modo la persistente lotta è un principio di vita che i nostri nemici non tollerano. Si sbagliano enormemente a pensare che questa opposizione spegne la fiamma di ogni cuore ribelle, perché questo è fatto di carne, sia per quanto riguarda il compagno Bonanno, sia per tutti i compagni che in diverse zone continuano ad opporsi al dominio. Sicuramente sperano che noi ci arrendiamo o ci demoralizziamo in questi tempi difficili in cui ci dispiace per la perdita del compagno Sebastian Overslugi. Ma la logica repressiva non la andremo a interiorizzare, né tantomeno la andremo a chiedare. Con la memoria rivolta alla lotta manterremo viva la memoria di ogni compagno caduto in azione. E questo non è un segreto, per gli anarchici anti-autoritari non esistono ostacoli che minacciano l'impegno a lottare, anche perché la piena libertà si otterrà attraverso circostanze avverse, gabbie, mura e confini. Così la solidarietà e l'internazionalismo non dovranno più essere parole vuote e solo la passione per la lotta ci deve infiammare. Perché la nostra storia è piena di resistenza offensiva, il nostro presente è pieno di lotta contro il capitale, lo Stato e tutte le forme di autorità. Con la memoria rivolta ai compagni morti, Claudia, Johnny, Mauri e Sebastian, presenti. Organizzatori, il comunicato è firmato organizzatori della giornata nera informale a Santiago. Poi sotto ci sono i vari avvenimenti tristi del passato, che i compagni hanno finito con uno slogan alla memoria di Claudia, Johnny, Mauri e Sebastian, e vanno a spiegare chi sono i compagni morti. Claudia Lopez, compagna anarchica uccisa dalla polizia l'11 settembre 1998. Claudia muore per un colpo alla schiena mentre combatteva la polizia nel calore delle barricate alla Pincoia. Johnny Caricheo, compagno anarchico ucciso il 31 marzo 2008. Johnny è stato arrestato il 29 marzo in Pudahuel dopo una manifestazione commemorativa e dopo aver subito un pestaggio da parte dei carabineros morì di infarto. Maurizio Morales, compagno anarchico morto in azione il 22 maggio 2009. Il Funky Mauri stava per attaccare con una bomba la miserabile scuola degli aguzzini della Gendarmeria. La bomba esplode prima di aver previsto, uccidendolo immediatamente. E alla fine Sebastian Verslucci, compagno anarchico ucciso in azione l'11 dicembre 2013, Sebastian partecipava all'esplorazione di una filiale bancaria in Pudahuel quando si è verificato uno scontro a fuoco con un mercenario della guardia di sicurezza privata. Il compagno è stato colpito da un proiettile che lo ha ucciso sul posto. E questo era il comunicato che ci fanno avere i compagni dal Cile, che ricorda pure i compagni morti in azione, che comunque ha dato un po' di delucidazioni per quanto riguarda il negato ingresso ad Alfredo Maria Bonanno dello Stato del Cile per quanto riguarda le iniziative sulla giornata nera informales. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono The Eternal Effect con il brano San Diego, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. Sensation. Ladies and gentlemen, the Eternal Afflict. Into my face at 6 o'clock. I awake, staring to this endless rain. E dopo di Eternal Affleck, brano San Diego, ritorniamo con la controinformazione. Prima ricordiamo che le dirette di radioazione non si fermeranno nemmeno per le feste, noi non festeggiamo un bel cazzo di niente, anzi auguriamo il Natale nero a tutte le autorità. Ricordiamo che quindi che sia lunedì 23 che a venerdì 27, ma come il 30 e il 3 si andrà in diretta regolarmente lunedì prossimo con la classica diretta d'azione con lettura, controinformazione musica. Ricordo che stiamo leggendo Vera Cruz con Di Valerio Evangelisti. Siamo arrivati già all'assalto dei pirati, alla fortezza di Veracruz, quindi siamo ad una buona metà del libro. Per chi è curioso, l'appuntamento è per lunedì, oppure se vuoi riascoltare tutti i podcast dei lunedì scorsi per riascoltare dall'inizio la lettura del libro. Allora, per quanto riguarda la controinformazione, invece ora si va in Cile, dove c'è, si ritorna in Cile, dove c'è uno scritto del compagno José Miguel Sánchez Jiménez, uno scritto da titolo Accompagnando con l'arma della solidarietà. Quando decidiamo attaccare potere in tutte le sue forme e con il nostro agire, privilegiamo l'azione diretta. Siamo consapevoli di quello che trasmetterà questa azione e ciascuna delle conseguenze o rischi che corriamo. Sappiamo che il nemico ci spia e muove tutti i suoi pezzi cercando di eliminare chiunque sia preso di mira. Lo sappiamo, non li temiamo e agiamo coerenti cercando di attaccare ciò che abbiamo stabilito senza aspettare l'occasione, nascondendo la paura. Noi non sottomessi, audaci e indomiti, siamo soggetti attivi in questa guerra dichiarata. I miei fratelli sono quelli che danno tutto in questa lotta, perfino la propria vita. Tutto e pronti a dare spinta e continuità alla distruzione del sistema, del potere, delle sue autorità e dei suoi privilegi. A tutti loro i miei migliori auguri, rispetto a tutta la forza per resistere all'assalto che il potere userà contro di voi. Non ho alcuna ombra di dubbio che ovunque si trovino, loro saranno fieri e agiranno con coscienza. Tutta la forza del mondo per tutti i prigionieri anarchici del globo, in particolare a Francisco Solar, Monica Caballero, a Juan Alice, Marcelo Villarroel, Freddy Fentavilla, Christos Tsakalos, alla cospirazione delle cellule di fuoco e di coloro che non dimenticano i loro fratelli detenuti. Forza e complicità e che nessun combattente si senta solo. Un abbraccio in rivolta a voi, José Miguel Sánchez Jiménez, ex penitenziaria, Calle 9, dicembre 2013. Questo era lo scritto del compagno detenuto in Cile. Ora ci ascoltiamo un brano, poi dopo passiamo a due notizie tutte insieme, tutte brevi, due brevi notizie. loro erano The Psychic Force con il brano Underpass. Ora continuiamo, avevo detto si va con due notizie brevi, oggi non c'è tanta fantasia nella controinformazione, nel senso che si passa dal Cile alla Grecia, dal Cile alla Grecia, dalla Grecia al Cile, arrivano da lì le notizie, quindi sono i compagni che ci tengono un pochino di più a tenere aggiornati su quello che accade nel mondo. Allora passiamo alla prima notizia, buona notizia, dove c'è una rivendicazione d'attacco in solidarietà con i detenuti a Salonicco. Leggiamo il testo rivendicativo, che è breve. Venerdì scorso, 13 dicembre 2013, abbiamo incendiato un veicolo diplomatico, nonché un furgone appartenente all'Università Aristotele di Salonicco. Questa azione è dedicata ai detenuti in sciopero della fame Spiros Stratulis, Rami Sirianus, Ergun Mustafa, Michaelis Ramadonkolu e la comunità dei prigionieri anarchici di Korydallos in Atene, che ci hanno mostrato un modo per combattere e vincere in qualsiasi condizione. I nostri compagni soddisfano la loro fame con esplosioni e calmano la loro sete con gli incendi. Viva l'anarchivo, tutto continua. E questa era per quanto riguarda l'azione in solidarietà con i sei compagni di cui abbiamo letto prima il testo e che ci avvertivano sulla fine dello sciopero della fame perché avevano raggiunto il loro obiettivo. Piccolo obiettivo, però comunque sono lotte di detenuti e quindi va bene anche questo. Altra notizia riguarda gli aggiornamenti sul processo per la doppia rapina a Vervento Cozzani. Il processo del caso della doppia rapina a Vervento è iniziato il 29 novembre scorso all'interno del carcere di Korydallos ad Atene. Nella seconda udienza del 12 dicembre non è stato chiamato nessun testimone. Gli avvocati della difesa non hanno voluto fare nessuna delle obiezioni che di solito vengono presentate in avvio del procedimento nei casi di antiterrorismo. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 10 gennaio 2014. Ricordiamo che Nikos Romanos, Yannis Michailidis, Andreas Dimitris Bourzoukos e Dimitris Polidis hanno rivendicato politicamente entrambe le rapine, mentre Fivos Arisis e Argyris Ntalios non sono coinvolti negli espropri di Vervendos, ma vengono giudicati esclusivamente sulla base di campioni di DNA. Forza a tutti gli anarchici detenuti nelle fauci dello Stato. E questo era l'altro aggiornamento che ci arriva, che abbiamo appreso dai siti e blog dei compagni greci, che ci fanno conoscere un po' come si sta sviluppando il processo a carico dei quattro compagni, dei sei compagni, quelle a doppia rapina di Vervento Cozzani. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Frontline Assembly con il brano Tensold, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. Across the border. E loro erano Frontline Assembly con il brano The Assault. Allora, avevo detto prima Grecia, Cile, Cile, Grecia, Grecia, si ritorna in Cile. Ora ci hanno scritto dal Cile, per l'appunto, uno scritto di José, di Juan Alice Vega, il compagno detenuto per il caso Security in Cile, insieme a Marcello Villaroel e Freddy Fuentevilla, e ultimo quello del compagno Chirileo, arrestato qualche giorno fa. Allora, lo scritto si chiama Somos Amor in Guerra, che riceviamo direttamente dai compagni di pubblicazione del frattario attraverso la mail. Allora, Somos Amor in Guerra sarebbe Siamo Amori in Guerra, per chi non l'avesse capito. Un impegno per i compagni che tengono alta la loro dignità contro il passo della maggioranza. Un impegno per tutti quelli che non sono soddisfatti di una misera imitazione di libertà che offre il moderno totalitarismo democratico. Con il coraggio di essere sinceri, ogni giorno diamo battaglia contro il sistema sperando di distruggere il mondo del potere. Siamo in guerra e non è una dichiarazione per dimostrare uno stato di opposizione classica tra apparati. Siamo amore in guerra, impegnandoci per la sovversione e l'insurrezione permanente, impugnando convinzioni di vita dove la nostra pratica ci rende nemici dello Stato, al di fuori del quadro di controllo sociale. Prendiamo il corso ruvido della nostra vita che insieme con altri, individualmente o collettivamente, combattiamo il capitalismo e tutto il suo fetore ideologico. A pelle siamo in guerra ed è urgente l'esigenza di resistere e lottare. Pertanto è il bagliore crescente di tenerezza e di ribellione negli occhi di voi, piccoli figli, che ci accompagna in aula un'aula disgustosa di un tribunale, è la voce incrollabile tra i monti e l'auracaria della compagna che rinfaccia al nemico la propria dignità di donna madre per la morte del suo compagno Peñi. È la forza del grido dei compagni libertari che rivendicano la lotta del proprio popolo Mapuche e la resistenza anarchica. Sono i visi integri di sangue anarchico dei nostri fratelli Francisco e Monica, ostaggi dello Stato capitalista spagnolo. È il suono aromatizzato della polvere che scuote la pace dei ricchi, che fa saltare in aria ciò che genera miseria. Sono le fiamme dei ribelli della barricata che bruciano in un'azione diretta un autobus un autobus praticamente della linea Santiago, Transantiago del Cile, il termine è lunghissimo. Sono le lettere, testi di propaganda che indicano con convinzione una vita senza padroni né schiavi. È la solidarietà caricata con la memoria, complici di una presente insurrezione permanente, e il bacio dell'amante che sfugge dai carcerieri, polizia, pubblici ministeri e giudici nel bel mezzo del socio per raggiungere la bocca fertile dei nostri compagni di classe. Sono le mani e il cuore di Luisa e Manuel che brillano di ribellione e sede di giustizia in ciascuno dei suoi battiti. È la constatazione di un paese di merda dove i ricchi potenti e i suoi leccapiedi della polizia continuano i loro festini di dominazione e repressione sulle vite di milioni di persone assopite, midollo del capitalismo e della democrazia assassina. Nonostante tutto, noi amiamo la guerra. Forza e resistenza a Monica e Francisco, saggi dello Stato capitalista spagnolo. Salutiamo la tua forza e resistenza a Carlos Chirileo. Fuoco alle carceri del capitale, sovvertire ora e insurrezione permanente. Memoria e lotta per il compagno anarchico Sebastian Overslugi. Solo la lotta ci rende liberi, fino a quando ci sarà miseria, ci sarà ribellione. Dicembre 2013, Castel di Alta Sicurezza in Cile, Juan Alice Vega, prigioniero sovversivo. E questo era lo scritto, lo ricordo che ancora una volta che Juan è in carcere con Freddy e Marcello per il caso Security, che praticamente riguarda un assalto alla Banco Security in cui ci rimase stecchito il capo della polizia di Santiago, il capo dei carabinieri a Santiago, non mi ricordo il nome, dello sbirro, e quindi il caso Security viene proprio dal nome della banca in cui ci fu l'assalto e la sparatoria. Ultimamente è stato arrestato anche Carlos Chirileo, è rimasto latitante per poco più di un anno ed è stato preso nemmeno una ventina di giorni fa durante un assalto, cioè una cosa studiata dall'unità antiterrorismo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono in NAMB con il brano Life, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. We'll be right back. questi erano i Numb con il brano Lies. Eravamo rimasti in Cile? Sì, donna in Grecia, allora. Ci sarebbe da piangere leggendo solo le notizie di controinformazione tra, che arrivano solo da Cile e Grecia, e dall'Italia non arriva mai un cazzo, ma fortunatamente, perché oggi si stanno leggendo più sfighe che cose carine. Il prossimo, per l'appunto, è uno scritto che arriva dalla Grecia, un compagno detenuto, Tassos Teofilou, che scrive qualcosa. Ora c'è bel da fare un bel respiro, perché ovviamente, come tutti i compagni greci, non si limita ad una paginetta, ma bensì a due pagine e mezza di scritto, scritto in occasione del processo. Allora, leggiamo direttamente lo scritto di Tassos. L'11 novembre 2013, nel tribunale di appello situato in via Lurkarios in Atene, dopo un ritardo di circa 5 mesi, comincia il mio processo. Un processo in cui dovrò affrontare una marea di accuse per la mia presunta appartenenza alle CCF e per la mia presunta partecipazione nella rapina in una banca sull'isola di Paros. Un processo con obiettivi politici e con arbitrarietà legali evidenti, con prove tanto inesistenti quanto fabbricate, e con i fatti distorti dall'unità antiterrorista e dai procuratori speciali. Un caso che dimostra in cosa consiste la gestione poliziesca giuridica degli esclusi e di chi resiste orchestrata dai mass media. Si tratta di un esperimento politico che combina il deus ex machina della repressione poliziesca, ho lasciato poliziale perché ho preso la traduzione da un altro sito che l'ha tradotta poliziale e poliziesca, l'aspetto scientifico del DNA e la repressione giudiziaria con l'articolo 187A, la cosiddetta legge antiterrorismo. Da un punto di vista giuridico è importante anche che da un lato non esista neanche un briciolo di prova credibile, ma dall'altro, come conseguenza di questa mancanza di prove o indizi, si sta violando tutto il concetto di presunzione di innocenza. L'accusato è chiamato a dimostrare la sua innocenza e non il tribunale a dimostrare la sua colpevolezza, come dovrebbe essere conforme alle garanzie presumibilmente fornite dalla giustizia penale influenzata dall'illuminismo. Nel mio caso succede qualcosa di ancor peggio, devo rifiutare le accuse senza aver di fronte alcuna prova tangibile, senza niente più che un ragionamento basato su menzogne e conclusioni arbitrarie riguardanti il mio stile di vita e non azioni specifiche. Comunque, a parte la dimensione giudiziaria, c'è anche quella politica, che ha una grande importanza, visto che sorgono molte domande. La più fondamentale di tutte è: perché l'unità antiterrorista, anziché la sicurezza, si prende in carico delle indagini per una rapina? Semplicemente perché c'è stato un morto, che naturalmente era un cittadino, un'opportunità di prima classe per innescare l'ambiente anarchico in azioni che non erano dirette contro lo Stato o contro obiettivi capitalisti, ma contro i cittadini. Uno sforzo che è cominciato nel 2009 con la curiosa esplosione di una bomba che ha causato la morte di un giovane immigrato afghano e continuato con i tragici avvenimenti nella banca Marfin. I mass media e l'antiterrorista cercano di convincere che gli anarchici sono un pericolo per chiunque, ma non per il potere stesso. Inoltre è importante vedere cos'è l'unità antiterrorista e qual è il suo ruolo. Il suo ruolo naturalmente non consiste nel risolvere i casi di rapine e omicidi. Di questo si occupa la sicurezza. Il ruolo dell'unità antiterrorista è liquidare l'ambiente anarchico e qualunque altra comunità di lotta, sempre con il pretesto di disarticolare le organizzazioni armate. Così gli arresti erronei non sono il risultato della loro incapacità, ma anzi mostrano la loro capacità di creare un clima di paura e panico tra la gente che lotta. Nella democrazia moderna si suppone che non si perseguono veramente le idee, ma le azioni, e quando non ci sono azioni criminali le si inventano. Quindi il 14 agosto 2012 qualche sconosciuto chiama l'unità antiterrorista informando che gli autori della rapina a Paros hanno qualcosa a che vedere con il terrorismo, e uno di loro ovviamente si chiama Tassos. Ha le mie caratteristiche e un indirizzo specifico, cioè che vive a casa dei miei genitori. Il 18 agosto c'è una nuova chiamata telefonica, questa volta che dice a loro che sono seduto sugli scalini della stazione della metro di Keramikos, e lì mi arrestano. L'unità di terrorista naturalmente non ha mai trovato quell'uomo sconosciuto. In questo modo si riempie il posto vacante che l'antiterrorismo aveva preparato per me già nel dicembre 2010. Il 4 dicembre 2010 arrestarono sei compagni anarchici in un'operazione antiterrorista impressionante. Un'operazione che finisce per essere un fiasco perché dei sei arrestati accusati di essere membri dello stesso gruppo, alcuni non si conoscono nemmeno tra di loro. Qualcosa che perfino i giudici confermano alcuni mesi dopo, assolvendo due persone da tutte le accuse. E per gli altri quattro, nonostante il trionfalismo dell'allora ministro di protezione del cittadino Christos Papoutsis, non emerge altro che la possessione di armi, per cui senza tutta una serie di trattamenti alchemici legali non sarebbe possibile aggiungere l'appartenenza alle CCF. I tre accusati nel caso, Costa Sakkas, Alexandros Mitrusias e Giorgos Karagiannidis, si prendono la responsabilità per il possesso di armi e per l'azione anarchica, mentre l'anarchica Stella Antonio è nelle mire dell'autorità a causa della sua relazione con Costa Sakkas, ma anche per l'aiuto che ha offerto ad Alexandros Mitrusias. L'antiterrorismo ovviamente ha saputo che anche io avevo una relazione di amicizia e di compagni con Costas Sakkas, con cui dal 2002 sono stato compagno di classe nella facoltà di teologia a Salonicco. Più o meno in questo modo è comparsa nelle loro osservazioni e inseguimenti una persona si presume sconosciuta che per puro caso ha le mie stesse caratteristiche ed è stata vista in tutta una serie di riunioni reali o inventate. In realtà questa persona non era loro sconosciuta in assoluto, perché al momento giusto hanno lasciato un posto vacante negli atti di accusa. E considerando le finalità mediatiche, il momento giusto si è prodotto nell'agosto 2012. Naturalmente è impressionante che questa persona sconosciuta, che non hanno arrestato allora, nel dicembre 2010, perché non la ritenevano importante, abbiano potuto riconoscerla due anni dopo, e questo nonostante la sua insignificanza. L'unità antiterrorismo ha deciso di coprire questo posto vacante che aveva riservato per me, e questo nella maniera più contundente, anche se poco credibile. Ha deciso di presentarmi come una persona coinvolta in una rapina che è terminata con un omicidio, basandosi sulle prove del DNA che sono state trovate in un cappello che presumibilmente avrebbe perso uno dei rapinatori, mentre una serie di sospettose irregolarità, contraddizioni e dimissioni sia riguardo alla raccolta di questo DNA sia riguardo al suo esame in laboratorio indicano che si tratta di una prova inesistente e fabbricata. Il mio caso non costituisce un'eccezione, è anzi un caso tipico nell'attuale stato di eccezione. È chiaro che con la crisi del sistema molte cose sono cambiate a livello economico, politico e sociale. Il capitale cambia i termini del suo dominio e lo stato di eccezione diventa permanente. Il complesso poliziesco giudiziario ottiene un ruolo più importante, da istruzione complementare si converte in strumento distaccato del potere. La repressione penale amplia ed approfondisce il suo ruolo, mantenendosi nel ruolo di unico regolatore e di garante nella coesione sociale. Nel frattempo il potere aspira ad ottenere qualunque tipo di consenso sociale attraverso la demonizzazione mediatica e la sanzione penale di chi resiste e degli esclusi, riunendo la parte più conservatrice della società intorno all'ideologia della legalità. Il totalitarismo capitalista, nella sua forma più moderna, si articola nell'utilizzo di termini sempre più militari, nell'affrontare un ampio insieme sociale come suo nemico interno potenziale. L'ambiente anarchico e i settori sociali esclusi sono classificati nella stessa cornice, quella dei fattori di destabilizzazione, e trattati con tolleranza zero. Da un lato la polizia con la sua presenza asfissiante ha occupato ogni centimetro dello spazio pubblico, le intercettazioni telefoniche non sorprendono nessuno, le telecamere di vigilanza collegate ogni 10 metri risultano quasi impercepite. Dall'altro lato gli spazi politici e i settori sociali esclusi lasciano spazio alla gestione penale. Il sequestro di impiegati, la legalizzazione degli scioperi, la legge antiterrorista applicata contro i manifestanti, i fatti di Scuris, le occupazioni di scuole, le retate costanti contro gli immigrati, Xenius Zeus, la repressione contro le donne sieropositive e contro gli zingari. Gli inquisitori dei mezzi di comunicazione, della giustizia e della polizia impongono la legalità come un concetto sacro, come dogma. La legalità deve essere realizzata con fervore religioso, se non con devozione. Come un'orazione che porterà il sacro sviluppo. Le distopie presentate nella letteratura e nel cinema già guardano con stupore la realtà attuale. la storia non è circolare, ma non è nemmeno una linea dritta. La storia va lì dove la portiamo, e se uno degli estremi, quello dei difensori del totalitarismo capitalista, espresso dalle maniere intimidatorie in cui il primo ministro Samaras si pronuncia in favore del memorandum o di uno sbirro nazi come Michailiakos, continua a insistere nello spingerlo verso l'oscurità più profonda e la barbarie assoluta, l'altro estremo, vale a dire gli anarchici, i comunisti e gli esclusi, nonostante le nostre più piccole forze, debbono spingerla verso la rivoluzione, verso l'emancipazione del proletariato, la liberazione dell'attività umana dell'insieme capitale, lavoro, salariato, verso l'anarchia e il comunismo. Anastasios Theofilou, carcere di Domokos, 4 novembre 2013. E questo era il lungo scritto di Tassos dal carcere di Domokos. Ora ci ascoltiamo un brano dei Covenant, io prendo un attimo un po' di respiro, i Covenant con il brano Stalker, e poi dopo si torna qui. E loro erano Covenant con il brano Stalker. Allora, diamo un ultimo aggiornamento per quanto riguarda la controinformazione, la prendiamo direttamente dal sito di informazione dove ci sono degli aggiornamenti sugli arrestati, ultimi arrestati del Notav. Leggiamo gli aggiornamenti direttamente dalla informazione. Claudio e Nicolò sono in cella insieme, di fronte a loro c'è Mattia, ora in cella con un ragazzo arrestato durante gli scontri in Piazza Castello durante i giorni di blocco in città. Sono nel blocco D, prima sezione, una sezione speciale protetto. Hanno un regime che prevede blindi chiusi 24 ore su 24, 2 ore d'aria e nessun rapporto con gli altri detenuti. Dalle 18 alle 20 fanno socialità tutti e tre insieme. Chiara invece è in isolamento, blindi chiusi, aria da solo, nessuna socialità. La posta è censurata, ritardata 5-6 giorni nell'arrivo e in uscita. Hanno autorizzato i colloqui con tutti coloro che hanno richiesto familiari e compagni. E alla fine c'è un invito a non inviare francobolli attraverso la busta perché vengono trattenuti al casellario e non vengono consegnati. E questa era per l'ultima notizia di controinformazione della giornata. Invece ricordo che su blog di redazione c'è la nuova pagina, lo scrigno, dove ci sono tutte le puttanate, tutte le perle, tutte le perline anarchiche che si possono trovare in vari siti e vari blog nell'oceano del web. Lo scrigno, perché lo scrigno è contenitore di ciò che di solito costruisce oggetti preziosi. Le perché belle anarchiche su web saranno custodite in questo scrigno senza lucchetto ed aperto a chiunque voglia ficcarci il naso dentro per curiosare e farsi una propria idea. Le perline non avranno risposta da parte di redazione, perché non si vuole andare a criticare o a provocare l'assurdo. Ci sono anche delle precauzioni e indicazioni per l'uso. A chi è debole di fegato e cuore si consiglio di fare un lungo respiro profondo prima della lettura. Inoltre non ridete troppo, perché c'è da piangere. Sotto la prima pagina, sotto la pagina nuova di Zecca, ci sono i primi tre articoli, due che già si erano un attimo criticati nemmeno una settimana fa, per quanto riguarda uno preso dal sito di 325 No State, in cui c'era una rivendicazione di un'azione a un ripetitore della Vodafone in cui si chiedeva la libertà di viaggiare e l'asilo per Edward Snowden, ex dipendente cervellone informatico della CIA. E poi l'altro dalla Russia, che elencava 10 buoni motivi per cui gli anarchici dovrebbero essere accanto e sostenere la lotta del popolo ucraino per mobilitazione col suo governo, perché chiede l'ingresso nell'Unione Europea. Questi sono i motivi buoni per cui gli anarchici dovrebbero sostenere. L'ultima perlina del giorno viene trovata sul blog anarchico Libertà e Partecipa / Azione Diretta, che si appresta anche a diventare una delle fonti principali da dove attingere pelle di saggezza. Leggiamo un articolo, e questo era quello più che mi saltava all'occhio, perché ce ne sono un altro paio bellissimi. Un articolo, uno scritto in cui si dice: è morto Nelson Mandela, il padre di tutti gli uomini liberi. Amen. Io aggiungerei sotto, quindi penso che avete capito lo scrigno di cosa si occuperà. Non ci sarà nessuna risposta, nessuna provocazione. Ognuno, c'è il link sopra, ci andate a cliccare, vi leggete la perlina del giorno e poi vi fate una vostra idea. Ok, questa era per l'ultima pagina aggiunta oggi sul blog di Radiazione. Ora ricordiamo gli appuntamenti prossimi per Radiazione, che è lunedì 23 dicembre, solito orario dalle 17 alle 19, con la controinformazione alla musica e soprattutto la lettura di Vera Cruz di Valerio Evangelisti, mentre per la diretta d'azione con controinformazione e musica si arriva a venerdì prossimo, che è 27, quindi niente feste di Natale. Ricordiamo anche gli indirizzi utili per Radiazione, che radiazione@vistici.org per inviare qualsiasi tipo di notizia, scritto, comunicati, giornali online. Se ci avete anche dei giornali, degli opuscoli che volete leggere, free download, mandateli a redazione che li pubblica, così li mettiamo nella pagina download dove potete scaricare opuscoli, manifesti, cd e quant'altro. Potete scaricare anche l'ultima cosa aggiunto, che è i 3 cd di Palabras in conflitto, la band di Sebastian Overslugi, il compagno ammazzato in Cile qualche giorno fa durante la rapina al Banco Estado. Invece redazione.noblogs.org, per l'appunto, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quasi quotidianamente, quando c'è la si mette. Per la radio, radiazione.listentumaradio.com, altrimenti cliccate sul banner il lunedì e venerdì dalle 17 alle 19, il banner che trovate sulla home page di Radiazione, il banner è l'immagine, diciamolo pure in italiano. Qualcuno dice che cazzo è il banner, questa è uno striscione, però il banner è l'immagine, quell'immagine, la ragazzina con le cuffie tutta che lampeggia con la città Radiazione. Ci cliccate sopra e vi si appiccia direttamente in Radiazione lunedì e venerdì dalle 17 alle 19. Non l'accendete in altri giorni perché non sentirete un bel cazzo. Se volete ascoltare le dirette d'azione, andate nella categoria ascolta le dirette d'azione e là potete ascoltare i podcast, compreso quello di oggi, ma lo ascolterete domani. Quindi questo è tutto, vi lascio con un brano dei Beborn Beton, il brano è Torture, e l'appuntamento è a lunedì ore 17 con Veracruz, controinformazione e musica. knife? E chi si offende è un pretendente. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.